Diverse lingue, orribili favelle. Fra le tante mie giovenili storture di cui mi toccherà di arrossire in eterno, non annovererò certamente come l'ultima quella di essermi messo in Firenze ad imparare la lingua inglese nel breve soggiorno di un mese che io vi feci da un maestruccio inglese che vi era capitato, invece di imparare dal vivo esempio dei beati toscani a spiegarmi almeno senza barbarie nella loro divina lingua che io balbettante stroppiava ogni qualvolta me ne doveva prevalere. E perciò sfuggiva di parlarla, il più che poteva, stante che la vergogna di non saperla potea pur qualche cosa in me, ma vi potea pure assai meno che la infingardaggine del non volerla imparare. Con tutto ciò, io mi era subito ripurgata la pronunzia di quel nostro orribile U lombardo o francese, che sempre mi era spiaciuto moltissimo per quella sua magra articolazione e per quella boccuccia che fanno le labbra di chi lo pronunzia, somiglianti in quell'atto moltissimo a quella risibile smorfia che fanno le scimmie allorché favellano. Vittorio Alfieri.